siamo costretti, sì, perché i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, che partono dal problema dell'ormai notissimo patto di stabilità e che impediscono molto spesso agli enti locali di pagare, sta diventando un problema insostenibile, perché questa mancanza di liquidità fa fallire le imprese, crea condizioni di disagio, di licenziamenti e via dicendo. Siamo arrivati a 9 mesi di media e quindi ci sono punte di 1 anno e mezzo, di 2 anni, veramente troppo. Quindi abbiamo atteso i tentativi di soluzione, ma abbiamo deciso di passare all'azione, nel senso che speriamo sempre che il problema venga risolto, ma nel frattempo ci stiamo preparando ad affrontare la strada dei decreti ingiuntivi, una sorta, mi faccia dire, in senso per prendere il problema, di class action, cioè tutti insieme di fare dei decreti ingiuntivi all'amministrazione pubblica, e naturalmente questo è rivolto allo Stato per questa inadempienza che oltretutto mina i rapporti tra cittadino e Stato, e il cittadino qui viene trattato da subito. Insomma, far fallire le imprese per non far fallire lo Stato. Quando partirete, Presidente? Noi abbiamo già cominciato a raccogliere in dettaglio i dati, che non erano chiari e noti. Abbiamo individuato 19 miliardi la sofferenza complessiva del settore dell'edilizia. 9 di questi miliardi sono in capo proprio al Lancio in particolare. Noi oggi eravamo insieme anche ai progettisti, a tutta la filiera delle costruzioni, alle cooperative, alla Confartigianato. Ma insomma, in capo al Lancio sono 9 miliardi di questi 19. E su 1 miliardo, i dati li stiamo aggiornando costantemente, siamo già in grado di aver individuato con la precisione tecnica necessaria la possibilità di fare dei decreti ingiuntivi. Noi volevamo oggi avvisare che il tempo è scaduto, che le imprese non resistono più, sono fallite 7.552 imprese dall'inizio della crisi nell'edilizia, si sta deindustrializzando il settore per una serie di motivi, in cui ci sono anche la riduzione del 50% degli investimenti pubblici, lo stesso più o meno come valore degli investimenti privati nella casa, la tassa IMU che ha prodotto ovviamente una paralisi nel settore, la riduzione dei mutui concessi dalle banche, quindi una serie di motivi congiunti che sono intervenuti, ma questo dei pagamenti rimane un elemento importantissimo di disagio.